ellas te van a pisar. 19:54, torniamo in voce per una coda di GR. Abbiamo un compagno dalla Sapienza, pronto, ci senti? Sì, ciao a tutti e tutte. Ciao, buonasera. E appunto, giorni piuttosto movimentati, insomma, questi in attesa del 12 aprile anche all'università. Sì. Insomma, ieri c'è stato, insomma, in città ieri ci sono state due occupazioni studentesche, in particolare una vicino alla Sapienza che è stata sgomberata, il tentativo, insomma, di occupare una palazzina per farne uno studentato, Godò, è stata violentemente sgomberata dalla polizia. E insomma, dopo la giornata di ieri in cui poi c'è stata la liberazione delle due persone fermate, si è data un'assemblea fra le realtà, insomma, che sono andate ieri ad occupare, in cui, insomma, si è ragionato sull'atteggiamento che c'è stato, sulla risposta anche molto politica dopo il decreto Lupi alle occupazioni, in particolare a quelle studentesche, e quindi decreto Lupi, diciamo, il piano casa, ricordiamo. Cosa? Dico, ricordiamo, stai parlando del piano casa? Certo, del piano casa, insomma, che no, per appunto per chi ci ascolta. Certo, contiene l'articolo 5 che è proprio un passaggio che va a prendere parola su chi occupa abusivamente, dicendo che non gli si possono dare residenze, allacci di servizi, e comunque anche nel resto del piano, insomma, va tutto in una certa direzione che, insomma, parla di emergenza abitativa per utilizzarla come un argomento, perché, insomma, se ne parla ed è visto da tanti, però poi non prende nessuna misura al riguardo, ma anzi. E detto questo, oggi c'è stata questa iniziativa alla sede del PD che sta in cui io non c'ero, però che vediamo che viene molto strumentalizzata in questi momenti con dichiarazioni sia da esponenti del PD che di SEL. Sì, molto pesanti. Noi abbiamo voluto dare spazio, insomma, alla parola dei movimenti, leggendo il comunicato e togliendo invece lo spazio a chi strumentalizza questa questione, ecco. Certo, per passarci rapidamente, insomma, poi quello è successo oggi non è niente rispetto pure alla violenza che c'è stata ieri a livello, insomma, che si è voluto dare di risposta, come al solito, alla tematica della casa. E questo per dire che, insomma, si è uscita dall'assemblea di ieri per rilanciare un appuntamento cittadino che volevamo, insomma, rendere più pubblico possibile, invitare tutti e tutte a partecipare per l'importanza, insomma, del momento, anche verso il corteo di sabato nazionale di sabato 12 aprile, che domani alle 5 all'università, fuori dall'università Piazza Aldo Moro, ci sarà un concentramento a seguire di un'assemblea pubblica al Pratone della città universitaria verso il 12 aprile. È un concentramento, appunto, che farà un corteo fino a Porta Pia, fino al Ministero delle Infrastrutture. Intende, insomma, prendere quella piazza anche in vista della manifestazione del 12 e come risposta agli sgomberi, quindi andando a gridare in faccia proprio al Ministro che ha fatto il piano casa e che anche su molte altre tematiche come la TAV, l'Expo, insomma, ha un ruolo molto importante, e aprire, insomma, dare un'ulteriore spinta verso il corteo di sabato. Quindi invitiamo tutti e tutte domani alle ore 17 a Piazza Aldo Moro per questa manifestazione verso il Ministero delle Infrastrutture. Noi ti ringraziamo, e appunto in questi giorni ovviamente stiamo parlando molto da questi microfoni di quello che sta succedendo, lo faremo anche nei prossimi giorni, anche domani, insomma, per questa iniziativa. Quindi per ora grazie, ma ci risentiamo prestissimo. Va bene, ciao a tutti e tutte. Ciao.